kitabun ko deftere marqumun de tawata hinde winda wadana numero wadana kashe no tampa mana deftere bedo yimbe bombe ndero deftere ko deftere windande mo kala deftere mudun den imana ka kuude makko de wona e windede don dum windete ha timma sinye wade numero wade kashe tawa majjata fiw mo kala e deftere mudun luna ko majjata.